girano farciti il mondo, suona cotonato, io perdo senso ritmico, spanto e collassato. Alzati e ti svegli, straccio e ti ripigli, e vai con un drink e mi bevo sti consigli. Passo giaguaro tra sti busti in movimento, guado del dancefloor fitta controvento. Grazie ad un bicchiere in più esploro il pavimento, e questo butta fuori, gonfio, mostra gradimento. Dietro front mi ritiro al mio angolo, sui tavoli nevica e tutti beccano il cordolo. Sarà coincidenza o un fatto strano, io mi siedo e ci ragiono con cartina alla mano, ed ero lì lì per chiudere quando, mano sul collo e fiato caldo, sobbalzo. Il gorilla bella vita prende tutto il mio, ma accompagna all'uscita con sto muscolo stantio. Ignora bamba tiranti, chicche volanti, tiri da tre nelle gole come ai campi, ma tiene cappuccio e cacchi calanti, finché appoggia il suo SUV i miei denti davanti. Minaccia, ne chiama altri tre, faccia a faccia, lo accende con sti gay e se ne va. Io chiavi alla mano neanche penso e si fa, lascio lì sulla fiancata 4 metri di tag.